Il punto di Stefano Folli. Le elezioni municipali in Francia mandano un segnale preciso. Ci raccontano della sconfitta socialista provocata dal crollo di popolarità di Hollande. Le amministrazioni locali andranno in larga misura al centrodestra, cioè agli eredi di Sarkozy, e questo appartiene alla fisiologia del sistema. Ma l'avanzata dell'estrema destra di Marine Le Pen ci interessa da vicino nella prospettiva del voto europeo. È un successo che va al di là dei numeri, in apparenza ancora modesti. Le municipali sono un terreno poco favorevole, eppure la Le Pen dimostra di aver messo radici profonde nell'elettorato. Il voto europeo, molto più favorevole alla sua campagna contro la moneta unica, potrebbe spingere il fronte nazionale al primo posto o quasi. È lo scenario più temuto a Bruxelles e soprattutto a Berlino. Un trionfo dei nemici dell'Europa segnerebbe il ritorno dei nazionalismi e sarebbe un colpo durissimo all'euro. Ma potrebbe, chissà, anche convincere la cancelliera Merkel che occorre cambiare qualcosa nelle politiche economiche che la Germania ha imposto al resto d'Europa. La Francia insegna oggi che arriva il momento in cui la cocciutaggine diventa autolesionismo.